Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera vi presento un libro inconsueto. Si tratta di un thriller e fin qua niente di strano, ambientato nel mondo contemporaneo e anche qui nulla di strano. Quello che è inconsueto è l'autore, che è un esordiente insospettabile. Infatti è un famoso economista che ha occupato ruoli di vertice alle Nazioni Unite, dove si è occupato in particolare della lotta alla droga, e in altre istituzioni internazionali molto importanti come la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, di cui è stato segretario generale. L'autore si chiama Antonio Maria Costa e ha pubblicato con Mondadori Scacco Matto all'Occidente, 528 pagine, 25 euro. I proventi, tra l'altro, di questo libro andranno a favore di una fondazione senza scopo di lucro che opera a favore dei giovani e delle donne africane. Si tratta dunque di un thriller, un libro che è uscito già in inglese alcuni mesi fa, nel quale Costa, come gli stesso spiega, porta le proprie esperienze personali di osservatore, commentatore e spesso protagonista delle vicende politico-finanziarie degli ultimi anni. Naturalmente non rivela segreti di Stato, però certamente ci fa vivere dall'interno il modo in cui tante decisioni sono prese, soprattutto ci fa vivere quelli che sono i nodi dello sviluppo e del cambiamento che ha avuto luogo a partire dagli anni 90 dello scorso secolo. Il protagonista del romanzo è un giornalista di successo di una rete televisiva europea, entusiasta dell'Europa, fidanzato con una ragazza che invece nell'Europa non crede molto. Ma non si parla soltanto di Unione Europea in questo libro, che ripeto è un thriller assai efficace anche sul piano narrativo. Tutti i grandi temi del grande sconvolgimento in corso sono quasi distillati nella vicenda che coinvolge Pier G. Bosco, questo il nome del protagonista, e di lui parliamo adesso con l'autore. Buonasera ad Antonio Maria Costa. Buonasera Carruba. Antonio Maria Costa, innanzitutto la domanda di prammatica: come mai un economista che si fa romanziere, che cosa l'ha spinto a questo passo? È stata una scelta inevitabile che risale già parecchi anni addietro, quando io ero direttore generale per gli affari economici e finanziari della Commissione Europea, perciò incaricato della politica economica e finanziaria dell'Unione. All'epoca tre grossi avvenimenti accadero: da un lato il crollo del muro e perciò la riunificazione tedesca, il crollo del comunismo e perciò l'uscita dei paesi dall'orbita comunista verso l'Unione Europea, e naturalmente la programmazione dell'euro. Avvenimenti cruciali che mi dettero all'epoca l'idea di rappresentarli, perché avevo partecipato a riunioni segrete, avevo partecipato a conversazioni riservate, che perciò aveva a mia disposizione note che erano importanti da passare all'opinione pubblica. Però come si passano queste note all'opinione pubblica, queste informazioni? Da un lato potrebbe essere una biografia che pochi leggono, dall'altro potrebbe essere stata una narrazione accademica che pochi leggono. Ho deciso di trasformarlo in una forma romanzata per erudire e allo tempo stesso divertire il lettore, spiegando la realtà però facendolo, rendendolo simpatico. Da quegli anni poi sono intervenuti molti altri mutamenti. Il mondo di allora è completamente irriconoscibile rispetto a quello in cui ci troviamo oggi. Certamente, ma quello che il romanzo fa, perché proprio inizia, perlomeno la stesura di esso inizia circa 20 anni fa, quello che il romanzo fa è di spiegare che la crisi odierna, che sia l'euro, che sia la potenza, forse anche la prepotenza tedesca in Europa, che sia la situazione in Russia o che sia l'emergere di nuove potenze, per esempio quella cinese, tutti questi avvenimenti trovano la radice nel passato, ed è appunto comprendendo il passato che possiamo capire il presente e speriamo gestirlo. Ecco, lei ci ha spiegato che questo libro quindi vuole fare capire ai lettori che non magari si annoierebbero a leggere un libro di economia. Quali sono secondo lei i problemi che oggi maggiormente sottovalutiamo e che lei ha voluto sottolineare nel suo libro? In primo luogo l'euro. L'euro è una moneta politica, è stata creata come moneta politica, moneta di scambio all'epoca della riunificazione tedesca. I francesi, anche gli italiani e soprattutto gli inglesi, molto negativi e perciò opposti alla riunificazione tedesca, si chiese all'epoca alla Germania di abbandonare il marco, la loro forte moneta, e di accettare l'euro. L'origine di questa moneta, perciò l'euro, è politica, scrive è una necessità storica che nessuno ama e che sta attraversando crisi inevitabili, perché manca tutto il sostrato istituzionale, finanziario, bancario per renderla forte. Quindi la crisi odierna è conseguenza del passato, ma anche il riflesso del fatto che, ci rendiamo conto, il libro lo spiega molto bene, per essere forte e durare nel tempo l'euro ha bisogno di questa maggiore integrazione che oggi politicamente e da un punto di vista di opinione pubblica è assolutamente inaccettabile, è antistorica. Quindi ci trova una moneta che in mezzo a un guado non può andare avanti e non può tornare indietro. Inevitabilmente le crisi continueranno. Lei nel suo libro spiega che sono quattro le trame di questo romanzo: una trama strategica, finanziaria, nucleare e cibernetica. Ecco, di queste quattro trame, quali sono le più interessanti, quelle che possono sorprendere di più i nostri lettori? Direi che la trama strategica è quella più importante, nel senso che essa coinvolge o riguarda la situazione europea, dove c'è una tensione inevitabile, non solo in termini di opinione pubblica verso o contro le istituzioni europee, ma proprio tra paesi. La preponderanza tedesca desta preoccupazioni ovunque ed è un processo inevitabile che bisognerà gestire, ma che non necessariamente ancora abbiamo capito di come gestirla. Questo all'interno dell'Europa. Naturalmente l'Europa è una parte di un processo strategico molto più complesso, nel quale per esempio si rappresenta in maniera molto corposa l'emergere della Cina, emergere finanziario, presenza anche di carattere commerciale soprattutto, ma sempre di più come presenza strategica. Ora, la ristrutturazione delle logiche di potere a livello globale, Cina verso Stati Uniti, Cina verso Europa e all'interno dell'Europa, Germania verso Francia e così via, crea una dialettica che io spero di aver rappresentato in maniera convincente, perché secondo me è inevitabile e rappresenta, come dice il titolo, proprio la crisi dell'Occidente, e cioè lo scacco matto all'Occidente. È tornato anche un player che quando lei iniziò a scrivere il libro sembrava fuori dai giochi, cioè la Russia. È ritornata la Russia in maniera forte, pur se in una maniera contraddittoriamente forte, perché il presidente russo odierno, Putin, naturalmente vuole rafforzare la componente strategica e la componente militare, però su una base economica e finanziaria debolissima. E qui è un po' la difficoltà odierna, tutti si rendono conto che l'Unione Sovietica 25 anni fa è crollata proprio perché mancava quella struttura economica e finanziaria per rimanere una grande potenza, oggi la Russia non ha ancora recuperato una potenza economica e finanziaria, quindi si trova in difficoltà e non vorrei, il libro lo spiega molto chiaramente, non vorremmo che alla ricerca di una via di scampo, data la crisi economica interna, che non si creino delle condizioni per sviare l'opinione pubblica. Poteva essere l'Ucraina una di queste condizioni, potrebbe essere la Siria una di queste condizioni, ma ci sono anche tante altre situazioni nelle quali la Russia potrebbe volersi coinvolgere proprio al fine di mantenere l'opinione pubblica fedele al regime, a Putin, al tempo stesso però cosciente che c'è una base molto debole, molto friabile e molto pericolosa. Grazie ad Antonio Maria Costa, autore di Scaccomatto all'Occidente. Buona serata. Un piacere. Un altro libro che in forma narrativa ci aiuta a capire che cosa succede in una delle aree più calde del mondo è quello di uno scrittore iracheno, Ahmed Saadawi, che vive ancora a Baghdad, dove fa lo scrittore, il giornalista, il poeta e il pittore. Il libro si intitola Frankenstein a Baghdad, è pubblicato dalle edizioni EO, 350 pagine, 18 euro, ed è tradotto da Barbara Teresi. Siamo appunto a Baghdad durante l'occupazione americana nel 2005-2006, la città è violentissima, come ricorderete, devastata dai kamikaze, e nel romanzo compare una nuova forma di Frankenstein, formato da un misterioso demiurgo con i pezzi delle persone che saltano in aria negli attentati. persone delle quali questa creatura mostruosa diventa il vendicatore anche per sopravvivere gli stesso. Frankenstein però non è soltanto un giustiziere, le sue imprese finiranno col terrorizzare ben presto tutta la città, confermando così l'ambiguità tanto del personaggio che del romanzo, che ha vinto il più importante premio per la narrativa araba. Ci interrompiamo un attimo, ci sentiamo fra pochi minuti. Radio24.it è sempre con te anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. A Milano è in corso una mostra che fa parte del fitto programma di appuntamenti culturali organizzati per l'Expo. Questa di cui vi voglio parlare questa sera è la mostra su Giotto, Giotto e l'Italia, che è in corso fino al 10 gennaio a Palazzo Reale, è curata da Pietro Petraroi e Serena Romano. Il catalogo è di Electa, è una mostra molto importante, le cui opere sono messe in risalto dall'allestimento di Mario Bellini. Una mostra che adesso ci presenta Marco Carminati. Ciao Marco. Ciao Salvatore, sì, questa di Milano è una mostra veramente eccezionale perché riunisce a Palazzo Reale una serie straordinaria di capolavori di Giotto, addirittura 5 polittici interi. E tra l'altro unisce un fatto incredibile, perché Giotto, intorno al 1335, venne a Milano e venne incaricato dai Visconti di affrescare il palazzo di Azzone Visconti, cioè l'attuale Palazzo Reale. Quindi la mostra è allestita esattamente nel palazzo che Giotto aveva affrescato, e noi sappiamo che fece un ciclo di uomini illustri, di uomini famosi e un'allegoria della giustizia. Questa mostra offre l'opportunità di vedere appunto tutto il percorso cronologico dell'attività di Giotto attraverso delle opere che toccano naturalmente gli inizi della sua carriera, il periodo padovano, che naturalmente non può essere rappresentato dalla Cappella degli Scrovegni, ma è rappresentato, pensate, da una finestra che Giotto dipinse, un'anta di una finestra con l'Eterno Padre, e che è presente in mostra. Ma la cosa eccezionale appunto sono, dicevo, i politici, e il più importante in assoluto è il politico che Giotto realizzò per la Basilica di San Pietro, per l'altare maggiore della Basilica di San Pietro. Significa che quello è il politico che hanno guardato Petrarca, Boccaccio, Cristoforo Colombo, tutti i grandi pellegrini che andavano a Roma vedevano quel dipinto. E questo dipinto è stato prestato a Milano dai Musei Vaticani ed è dipinto su due facce, perché si trovava naturalmente al centro della tribuna di San Pietro. Verso i pellegrini si vedeva San Pietro con il committente, che non era il Papa. In quel periodo il Papa non era a Roma, si trovava ad Avignone, quindi è un cardinale che paga il politico, e il cardinale Stefaneschi, che si vede in un dettaglio bellissimo perché tiene in mano un modellino del politico e lo offre a San Pietro. Tra l'altro è il politico intatto, cioè con tutti i pinnacoli. Purtroppo quello reale non ce li ha più i pinnacoli perché venne smontato. Dall'altra parte invece c'è Dio Padre, perché da quella parte stavano i canonici di San Pietro, il clero, e quindi bisognava ammirare naturalmente la divinità. E questo è un prestito davvero eccezionale. Però tutta la carriera successiva di Giotto è illustrata per esempio dai politico Baroncelli, cioè il politico che fa per i banchieri. Per un certo periodo della sua vita Giotto lavora per i grandi banchieri, i Bardi, i Peruzzi, i Baroncelli, i banchieri di Firenze. E poi c'è un sogno, il sogno è quello di far tornare il papato in Italia, ma il pontefice non vuole tornare a Roma, vuole tornare a Bologna, e fa predisporre tutto un apparato, cioè un palazzo e addirittura una cappella con tanto di politico pronto per ricevere il pontefice, che da Avignone torna in Italia e va a vivere a Bologna. E il politico che doveva essere pronto lo realizza appunto Giotto. Oggi questo politico si trova nel Museo Nazionale, nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, ed è stato prestato a Milano. È singolare perché si trova la firma di Giotto, Opus Iocti Florentini, quindi abbiamo anche questo elemento che Giotto si rende conto che quella è una delle sue grandi occasioni, cioè essere il pittore che mette davanti al Papa un quadro e quindi ci lascia il suo nome bene in evidenza. In questa occasione esce uno storico libro di Luciano Bellosi, che è stato uno dei grandi storici dell'arte italiana, scomparso nel 2011. Il libro si intitola La pecora di Giotto, è curato da Roberto Bartalini, pubblicato da Abscondita, 398 pagine, 35 euro. E questo è un libro di 30 anni fa, ricchissimo di immagini, che è considerato particolarmente importante perché diede l'occasione per riaprire uno storico dibattito su Giotto, in particolare sul ruolo che il grandissimo pittore svolse nella realizzazione degli affreschi nella chiesa superiore di Assisi, quelli dedicati a San Francesco. Il titolo del libro naturalmente si riferisce al famoso aneddoto dell'incontro tra Cimabue e il ragazzino Giotto, che con una pietra disegnava a meraviglia una pecora, un aneddoto che è raccontato dal Vasari. E questo titolo, spiega l'autore, non è soltanto un aneddoto, perché fa riferimento innanzitutto al rapporto che si creò, un rapporto molto complesso e importante in cui non si capisce bene chi sia stato il maestro e l'allievo, cioè fra Cimabue e Giotto, e sottolinea anche, sempre questo titolo spiega, l'aspetto realistico messo in luce proprio da questo episodio, che magari è leggendario ma che dimostra l'attaccamento, la svolta che Giotto diede nel seguire una venatura maggiormente naturalistica della sua pittura, e quindi fa capire la portata rivoluzionaria del suo intervento nella storia dell'arte occidentale. Un'altra mostra in corso, questa non a Milano, è quella dedicata al pittore Antonio Ligabue in occasione del cinquantenario della morte. La mostra si svolge a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, a Palazzo Bentivoglio, fino all'8 novembre, ed è curata da Sandro Parmigiani e Sergio Negri. Un'altra mostra su Ligabue è in corso alla Fondazione Franco Maria Ricci a Fontanellato, si intitola Arte e Follia Antonio Ligabue e Pietro Ghizzardi. Questa è curata da Vittorio Sgarbi ed è aperta fino al 31 ottobre. Marzio Dell'Acqua, che è il presidente del Centro Studi e Archivio Antonio Ligabue di Parma, ha pubblicato in questa occasione del cinquantenario appunto della scomparsa del pittore Antonio Ligabue, pubblicato a Castelvecchi, 224 pagine, 25 euro. Qui troviamo testi e illustrazioni per farci capire quale sia stato il vero mondo di Ligabue, per troppo tempo liquidato esclusivamente come un pittore naif, e che invece fu una personalità certamente sfortunata, tormentata, ma oggi rivalutata come un solitario e grande artista del Novecento. Infatti l'autore scrive che certo Ligabue si muoveva perduto dietro ai propri impulsi e umori, ma intorno a lui è tutta una vita culturale che fermenta, pulsa, ricerca, e la sua opera ne diventa come una cartina di tornasole, denuncia della condizione dell'artista, del creativo, ma anche dei percorsi del successo e della popolarità. Un artista tutto all'opposto di Ligabue è uno scultore appartenente alla celebre famiglia milanese dei Bagutta. Il padre Carlo era un disegnatore, il fratello Ettore affondò la famosissima casa automobilistica. Lui, Rembrandt Bagutta, fu famoso scultore vissuto tra il 1884 e il 1916, specializzatosi negli animali, soprattutto feroci, che erano protagonisti delle sue opere in bronzo. Fu un personaggio leggendario che passava le giornate al Jardin des Plantes di Parigi piuttosto che allo Zoo di Anversa per studiare i suoi soggetti, e che diventa protagonista di un libro di Edgardo Franzosini. Questa vita, tuttavia, mi pesa molto, pubblicato da Delphi, 118 pagine, 12 euro. Una biografia che si legge come un romanzo sulla vita di quest'artista, un artista sfortunato vissuto soprattutto a Parigi, che diventò famoso appunto per un talento che presto gli viene riconosciuto, ossia, scrive l'autore, la conoscenza esatta delle abitudini e dei comportamenti degli animali. Sembra che abbia vissuto con loro, che possa comprenderne ogni movenza e ogni espressione. E uno di questi animali troviamo in copertina, un elegantissimo fenicottero del 1912. La storia, la vita di questo personaggio veramente affascinante per la passione divorante, che visse un trauma drammatico durante la prima guerra mondiale, perché di quella guerra le prime vittime furono proprio gli animali dello zoo di Anversa. Una passione che fu accompagnata da una grande capacità artistica, alla quale ricorse anche il fratello Ettore per un particolare delle sue auto, e cioè il tappo a forma di elefante. Ultimi arrivi. Continuiamo con i grandi artisti, con un libro di Melania Mazzucco, Giacomo Tintoretto e i suoi figli, storia di una famiglia veneziana, pubblicato da Rizzoli, 1024 pagine, 42 euro. Questo è la riedizione di un volume pubblicato qualche anno fa, introdotto da uno scritto inedito dell'autrice, ma in questo volume c'è il frutto delle ricerche che sono continuate in questi anni negli archivi, anche nei musei, per vedere altre opere di Tintoretto, e quindi l'analisi della Mazzucco in qualche modo è aggiornata rispetto a quella del volume pubblicato nel 2009. Poi vi segnalo di Dario Fo e Franca Rame, nuovo manuale minimo dell'attore, chiare lettere, 234 pagine, 16,90 euro. Questa è la seconda puntata di un libro che ebbe grande fortuna, il manuale minimo dell'attore, pubblicato nell'87, frutto del lavoro comune tra Fo e Franca Rame, una collaborazione, come sappiamo, interrotta poi dalla scomparsa della seconda. Poi vi segnalo di David Lagerkratz, Quello che non uccide, 504 pagine, 22 euro, tradotto da Laura Cangemi e Katia De Marco per Marsilio. Questa è la nuova avventura che prosegue il ciclo avviato da Stieg Larsson con Millennium, e la pubblicazione di questo libro ha appunto dato vita a grandissime polemiche in Svezia, dove è stato considerato quasi un sacrilegio che il fatto che morto l'autore Larsson, l'autore così fortunato Larsson, qualcuno si sia preso l'incarico di continuare, diciamo, questa saga. E infine vi segnalo di Silvia Vegetti Finzi, una famosa psicologa, Una bambina senza stella, le risorse segrete dell'infanzia per superare le difficoltà della vita, pubblicato da Rizzoli, 234 pagine, 18,50 euro. Un ricordo d'infanzia, definisce l'autrice questo libro, che rilegge le proprie esperienze infantili con una lettura anche psicoanalitica, per offrire ai genitori la possibilità, scrive, di affinare una sensibilità appannata dalla paura del presente e dall'ansia del futuro. E a questo punto il confettino. Oggi vi presento una nuova collana per i ragazzi che è pubblicata da Electa, si chiama Electa Young, dedicata a giovani dai 13 ai 19 anni, quindi insomma in età forse più da mojito che da confettino, ma del resto questa fetta di lettori è una fetta di mercato importante che sta crescendo, e quindi è bene che ci siano sempre nuove opportunità di lettura per loro. La collana si apre con quattro titoli, uno è di Simon Rowe che si intitola Draw, il suo anagramma, 406 pagine, 9,90 euro. Questo è il primo di una trilogia di genere thriller e paranormale che ha avuto un enorme successo col self-publishing online. L'autore infatti è un giovane esordiente. Poi troviamo sempre questa collana di Paola Zanoner, che è una nota scrittrice per ragazzi, Un giorno ci incontriamo, 156 pagine, 14,90 euro. Che è un romanzo di amore tra gli adolescenti persi nel mondo virtuale. Poi di Ferdinando Albertazzi, che è un autore per bambini, Scomparso, 132 pagine, 14,90 euro. Questo è un noir sulla sparizione di un ragazzo che apre uno squarcio sul rapporto genitori-figli. E infine l'ultimo di questa nuova collana di Valentina Camerini, che è una regista e sceneggiatrice, Un salto grande, un sogno, 116 pagine, 14,90 euro, in cui troviamo come protagonista una ragazza appassionata di ginnastica artistica che scopre il mondo dell'agonismo con le sue eccitazioni, ma anche con tutti i problemi, i patemi e anche i traumi che l'amore contribuirà ad affrontare meglio. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Peter Bescapè, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.